Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Comando NATO in tutte le operazioni in Libia, la decisione ufficiale arriverà domenica, battaglia misurata a Javia. Altri immigrati a Lampedusa, mini proteste per il villaggio della solidarietà, il presidente della conferenza delle regioni Errania Radio 24, ognuno faccia la sua parte. Stress test per le centrali nucleari europee a Fukushima, situazione ancora imprevedibile, dice il premier giapponese. Galan Alemanno è scontro sul cinema, il neoministro vorrebbe solo il Festival di Venezia. Buongiorno dalla redazione, una buona giornata da Anna Migliorati. L'operazione in Libia durerà settimane, non mesi, lo assicurano i francesi mentre vanno avanti i raid. Sul fronte diplomatico sembra chiusa la questione NATO, la decisione del passaggio di consegne per tutte le operazioni dovrebbe essere formalizzata domenica, mentre l'Italia è alle prese con la questione immigrazione. Questo è il quadro, ma cominciamo subito da Bruxelles, da dove arrivano in queste ore le decisioni e dove c'è Sergio Nava. Sì, buongiorno. Allora, per quanto riguarda ovviamente la questione libica, il comando NATO oggi si è fatto finalmente un po' più di chiarezza rispetto a ieri, dove addirittura si era ipotizzata una guida bifronte, praticamente da una parte la NATO con una no-fly zone e dall'altra la coalizione attuale con una no-fly zone plus che prevedeva anche attacchi a terra. Da quello che si è capito, ma ovviamente siamo ancora in una fase di decisione, probabilmente la NATO avrà un ruolo globale e probabilmente anche entro domenica sulle operazioni in Libia, tutte le operazioni militari in Libia, dice una fonte dell'alleanza, e non ci sarà quindi più la coalizione volenterosa e quella della NATO, ma solo una coalizione internazionale a guida NATO. Anche il ministro degli esteri britannico William Hague in un'intervista a Sky News ha detto che si va verso un pieno comando della NATO. E secondo un'altra fonte militare dell'Alleanza Atlantica, questa missione NATO è prevista al momento per un periodo di 90 giorni, ma ovviamente potrà o meno essere allargata. Intanto il segretario generale Anders Fogh Rasmussen sarà martedì a Londra alla riunione del gruppo di contatto sulla Libia. Da parte sua, perché ovviamente poi i fronti in realtà sono due, cioè il fronte NATO, entrambi sono a Bruxelles, ma c'è il fronte NATO e poi c'è il fronte del Consiglio europeo che è in svolgimento qui alle istituzioni comunitarie, e l'Unione europea non ha accolto completamente la proposta tedesca fatta ieri dalla cancelliera Angela Merkel di un embargo totale del petrolio, però si è detta pronta a formulare e adottare nuove sanzioni contro la Libia. Di fatto l'embargo più che sul petrolio sarebbe su Gheddafi, nel senso che l'idea è quella di proporre sanzioni all'ONU che evitino che qualsiasi provento commerciale finisca nelle tasche del Rais o comunque diciamo della sua cerchia. Grazie a Sergio Nava. In studio con me anche Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Cambia qualcosa il fatto che la NATO prenderà in mano la situazione? Beh, quello che era emerso ieri sera tardi era ai limiti del ridicolo, perché sembrava appunto, come diceva giustamente Sergio, sembrava stesse tutto, si moltiplicasse come una specie di matrioska. In realtà sembra di no, anche se ci vorranno altri due giorni perché vengano prese decisioni di questo genere. Questo dimostra come questa missione è partita molto male, adesso si sta raddrizzando naturalmente, però vediamo ancora sull'uso del petrolio come strumento di pressione su Gheddafi quanto sia difficile, la Germania dica una cosa e dica l'altra. La realtà è che manca il leader che fino ad ora nel bene o nel male, nel bene nella guerra della liberazione del Kuwait o nel male come l'invasione di Iraq, sono stati gli Stati Uniti. E quindi essendoci una guida collettiva è più democratica ma è meno efficiente. Domenica arriva la decisione ufficiale, nel frattempo in questi giorni si proseguirà così. Oggi sentivamo anche di notizie di soldati britannici che già sarebbero sul territorio. Resta questa confusione e ancora per qualche giorno dovremo accontentarci di questo? Io temo che la confusione continuerà anche dopo, perché appunto questa è una missione un po' originale nel suo genere. Detto questo, non credo che, anche se ci sono soldati francesi, inglesi e sicuramente ci sono anche francesi e forse abbiamo anche qualcuno dei nostri, io credo che il dispiegamento non sia militare ma sia di servizi segreti, e soprattutto questo è quello che dovrà accadere, vengano mandati degli esperti per educare alle armi e l'opposizione, cioè si deve creare un esercito dell'opposizione, sono loro che dovranno entrare a Tripoli. l'esercito di Bengasi. Credo sia molto difficile che questa missione diventi, proprio perché è così disorganizzata e così molteplice, possa avere la compattezza per fare qualcosa di politicamente così poco, molto difficile come fare un'operazione terrestre. E allora sentiamo innanzitutto cosa sta accadendo appunto sul campo. Qui con me c'è anche Paolo Piacenza che sta monitorando da questa mattina la situazione di oggi. Sì, partiamo con il dire che la coalizione dei paesi che mettono in campo mezzi militari si è allargata. Dopo il Qatar anche gli Emirati Arabi hanno deciso di inviare 12 aerei per le azioni in Libia. Come accennavi nei titoli, le operazioni alleate non si concluderanno presto. In ogni caso, il capo di Stato Maggiore francese Edouard Guiard a Radio France Info ha ipotizzato una durata di alcune settimane e spera che non dureranno mesi. Ma per farci raccontare che cosa sta succedendo sul campo, sentiamo il corrispondente Cristiano Tinazzi, a cui chiediamo cosa si registra oggi per la cronaca a Tripoli. Sì, buongiorno. Oggi è giornata di preghiera per la città e anche giornata di preghiera per i cattolici che sono rimasti a Tripoli. Stamattina sono andato appunto a parlare anche con il vescovo Martinelli sulla situazione che si sta vivendo in questi giorni. Naturalmente le persone sono terrorizzate, la gente ha paura, si bombarda anche di giorno. Confermato anche che Tagiura è stata colpita verso mezzogiorno di ieri con numerosi missili, si parla anche di vittime civili, anche se è impossibile stabilire quante siano. Molto spesso noi giornalisti viene impedito di avere accesso diretto alle fonti di informazione. Sicuramente però ci sono queste morti civili che sono state confermate anche a Tagiura, una famiglia intera è stata uccisa dai bombardamenti, probabilmente per la vicinanza della loro abitazione a uno degli obiettivi militari. Si sta vedendo anche qualche conseguenza di questa guerra, ci sono lunghe file davanti ai pochi distributori rimasti aperti. Grazie a Cristiano Tinazzi. Sul terreno si continua a combattere a Misurato, dove l'esercito di Gheddafi sta, a quanto riferito dalle agenzie, bersagliando la città col fuoco dei tanks e avanza, cercando di entrare nel centro abitato in modo da evitare i raid della coalizione alleata che ieri avevano colpito appunto le forze di Gheddafi a Misurata. Le forze di Gheddafi sono invece in difficoltà da Jabia. Questa notte ci sono stati interventi dell'aviazione britannica e francese, gli insorti hanno annunciato di mandare rinforzi nella zona, c'erano notizie, sono da capire quale sia l'evoluzione, su una possibile resa di una brigata fedele a Gheddafi che è collocata appunto ad Jabia, che in Cirenaica. Per quanto, come si diceva prima, per quanto ufficialmente tutti escludono operazioni di terra in Libia, il Mail riferisce che 350 militari delle forze speciali britanniche sono già operative nel paese con il compito di fornire informazioni. Infine, fonti dei ribelli da Bengasi danno un bilancio di queste settimane di conflitto e parlano di una cifra oscillante tra 8.000 e 10.000 persone rimaste uccise, con l'aggiunta che ieri il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha lanciato un nuovo allarme profughi parlando di possibili 250.000 rifugiati. Ed è tutto. Grazie a Paolo Piacenza. Allora restiamo proprio alla questione profughi. Sono stati accompagnati in un centro di prima accoglienza questa mattina i 44 migranti intercettati ieri sera vicino alle coste siracusane, intercettato anche un barcone, ma non sarebbe quello disperso da giorni nel Mediterraneo. Oggi Maroni e Frattini sono a Tunisi, mentre la nave San Marco è di nuovo a Lampedusa per trasferire altri migranti. Ma in Italia, dopo l'accordo annunciato dal Viminale, regioni e comuni fanno in queste ore è un passo indietro di fronte alla possibilità che arrivino migranti da Lampedusa. È già protesta a Mineo, al villaggio della solidarietà. E allora anche su questo facciamo il punto, Elisabetta Fiorito. Sì, allora come avete detto voi, situazione sempre più grave sul fronte immigrazione. I ministri degli esteri Franco Frattini e degli interni Roberto Maroni volano a Tunisi per cercare di frenare gli sbarchi. Per Maroni la maggior parte degli immigrati di Lampedusa sono provenienti dalla Tunisia e non sono rifugiati ma clandestini. Dice il ministro, lavoriamo per evitare lo tsunami umano. È polemica poi per le parole di Livia Turco del Partito Democratico, l'inefficienza dimostrata dal governo in queste settimane umanitaria a Lampedusa non è casuale, dice Turco, ma è coerente con la strategia di creare allarme sociale e lamentare le carenze dell'Europa. Poi il presidente della conferenza delle regioni, Vasco Errani, lancia un appello proprio a Radio 24. Sentiamo Errani. Le regioni, tutte le regioni, i comuni e le province, insieme al governo, il ministro Maroni, abbiamo preso una decisione, e cioè che proporzionalmente, in uno sforzo di solidarietà nella gestione dell'emergenza umanitaria, ciascuno fa la propria parte, che è l'unica strada seria e responsabile. Ma i sindaci di Roma, Alemanno e di Milano Moratti hanno già detto che le due città non possono accogliere profughi. Intanto il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano promette 13 nuovi centri provvisori di identificazione ed espulsione, saranno realizzati in siti militari dismessi. Probabilmente quello di Manduria, vicino a Taranto, sarà il primo. Ricordiamo che in poche ore sono arrivati a Lampedusa 500 clandestini. Il ministro della Salute Ferruccio Fazio assicura però che non ci sono rischi di epidemia. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Apriamo anche un altro capitolo, non c'è solo il fronte libico. Notizie arrivano questa mattina anche dalla Siria, notizie che si susseguono anche in questi minuti. Le prime parlavano di 200 persone che sfilavano in strada nel centro di Damasco per manifestare contro il regime, e sarebbero scattate nelle prime ore di questa mattina decine di arresti. Ora le agenzie raccontano anche di centinaia di siriani del sud del paese che si stanno dirigendo verso Dara, il capoluogo della regione meridionale dove nei giorni scorsi era esplosa la protesta, e di migliaia di siriani che hanno sfilato anche nelle città del nord-est e a Homs, città a 180 km a nord di Damasco, capoluogo di nascita della First Lady. Ugo Tramballi, sono notizie davvero che arrivano una dopo l'altra in questi minuti, la maggior parte delle volte anche da Twitter, da internet, che è stata un po' il veicolo di questa protesta nel mondo arabo. Che succede in Siria? Sta per scoppiare anche lì qualcosa di nuovo? Sì, internet e Twitter sono stati il motorino di avviamento. Il vero motore è stata Al Jazeera, che poi è scattata per far mobilitare le piazze. Sì, sta accadendo quello che è accaduto in Egitto. Anche lì c'è una società civile che chiede più democrazia, più apertura, più libertà. Naturalmente questo si innesca in una realtà però diversa e più complessa di quella egiziana, intanto perché il regime è controllato da una minoranza alawita di origine sciita, mentre la stragrande maggioranza della popolazione siriana è sunnita, e questo in quelle regioni conta molto. E poi c'è comunque, diversamente dall'Egitto, un regime che è molto più efficiente, molto più brutale, il regime poliziesco e militare di Mukhabara, dei servizi segreti, di quanto non lo fosse in Egitto. Quindi sicuramente anche lì sta succedendo qualcosa di simile all'Egitto, ma penso che il regime terrà di più, o comunque forse rischieremo di vedere un bagno di sangue peggiore. Vittime qui ce ne sono già state. Adesso davvero le agenzie stanno battendo notizie di manifestazioni da una città all'altra. Micromanifestazioni, ma anche molti che stanno andando verso questa città di Dara, che è stato un po' il cuore, sì, di questa protesta. Questa parte del paese, perché qui c'è qualcosa di specifico, o sono davvero proteste ormai che si espandono come un'onda? No, poteva accadere in altre parti, principalmente perché Dara è un importante centro sunnita, infatti. Poi perché l'origine dell'inizio delle manifestazioni era un uomo d'affari locale che era considerato particolarmente corrotto, che, by the way, tra l'altro, è cugino di Bashar Assad. Perché anche lì c'è... Le riforme economiche sono state fatte, sia pure non in maniera così precisa come in Egitto, però come in Egitto sono riforme economiche che sono servite per arricchire un gruppo ristretto di persone, non la maggioranza della popolazione. La Siria è povera altrettanto quanto lo è tuttora l'Egitto. Questi sono dei momenti, sono degli elementi di innesco molto forti. Io credo che quello che stiamo vedendo oggi, che abbiamo visto nei giorni scorsi, sia solo un inizio. Vedremo poi ben di più nelle prossime settimane. Sarà questo il prossimo fronte nelle prossime ore, nei prossimi giorni, insomma. Non necessariamente un fronte di guerra civile, io credo che sarà qualcosa di più simile, forse più sanguinoso, all'Egitto. Ma più simile all'Egitto che alla Libia. Grazie anche a Ugo Tramballi. Le 13:14, ci fermiamo qualche istante e poi le altre notizie. Le 13:18 minuti, le notizie di oggi di GR24, comando NATO in tutte le operazioni in Libia, la decisione ufficiale arriverà domenica, battaglia misurate a Javia. Altri immigrati a Lampedusa, mini proteste per il villaggio della solidarietà, Milano e Roma già dicono no ai centri di accoglienza, manifestazioni in Siria, migliaia in piazza in queste ore. E noi riprendiamo invece con lo scambio di accuse tra il neo ministro per i beni culturali Galan e il sindaco di Roma Alemanno. Motivo del contendere è il cinema. Che succede? Alessandra Schepisi. E sì, Anna, si insedia il nuovo ministro e torna la vecchia polemica sui due festival del cinema. Il nuovo titolare dei beni culturali Galan infatti rilascia interviste a tre quotidiani dove definisce imbarazzante se non stravagante l'esistenza di due rassegne. Meglio sarebbe, sostiene il ministro, potenziarne una, cioè la più antica Venezia, e lasciar perdere l'altra, quella capitolina. Parole che c'era da aspettarselo, hanno fatto andare su tutte le furie il sindaco di Roma Alemanno, il quale interviene prima con una nota, poi poco fa a margine di una conferenza stampa. Ovviamente noi non siamo affatto d'accordo, questa è una polemica vecchia, superata, ormai il Festival di Venezia e quello di Roma convivono perfettamente, noi non abbiamo nessuna intenzione di revocare il Festival di Roma che cresce ogni anno. Tra l'altro il Ministro ci dà solo 200.000 euro per progetti mirati, mentre a Venezia dà ben 7 milioni, quindi da questo punto di vista il Festival di Roma va avanti con buona pace del ministro Galan, che è meglio che pensi a altre cose, sono molto più urgenti. Ha incontrato il ministro, lo incontrerà nei prossimi giorni, ci parlerà? No, non ho ancora parlato, chiederò un incontro per avere un confronto, ma non su questo tema non è neanche in discussione, è così e basta. Categorico dunque Alemanno, la festa di Roma non si tocca, tanto più che vive per il 70% di sponsorizzazioni private. Dello stesso avviso il presidente della provincia di Roma Zingaretti e la presidente della regione Lazio Polverini, parole che pesano, siamo amareggiati, dicono entrambi. Staremo dunque a vedere come finirà questa ennesima polemica. Te Anna. Grazie ad Alessandra Schepisi. Noi voltiamo pagina, andiamo a Bruxelles, dove è stato deciso questa mattina dal Consiglio europeo di avviare gli stress test per le centrali nucleari europee, ad annunciarlo la cancelliera Angela Merkel. Oggi parliamo della lezione del Giappone da Fukushima. Sono molto contenta che arriveremo a stress test comparabili per le centrali nucleari e che ci impegneremo a portare la loro sicurezza al massimo livello. Questa è la vera lezione. Non occuparsi solo della sicurezza delle centrali nazionali, cosa che naturalmente in Germania già facciamo, ma proiettare la questione a livello europeo ed internazionale. Sono molto ottimista che raggiungeremo conclusioni molto buone sul tema. E in Giappone intanto la situazione nella centrale di Fukushima è ancora imprevedibile. Il premier nipponico ha parlato così nella consueta conferenza stampa per aggiornare sulla situazione. Sentiamo l'inviato. A due settimane esatte dalla tripla catastrofe che ha colpito il Giappone, terremoto, tsunami e crisi nucleare, resta alto l'allarme radioattività e delicata la situazione della centrale atomica di Fukushima. Mentre il numero delle vittime accertate continua a salire, l'economia del paese soffre per le carenze di elettricità, le difficoltà logistiche e i problemi lungo tutta la catena produttiva. Oggi è arrivata la notizia che il contenitore delle barre di combustibile del reattore numero 3 della centrale nucleare potrebbe essere stato seriamente danneggiato, un sospetto determinato dalle circostanze che due lavoratori dell'impianto sono stati a contatto con acqua 10.000 volte oltre il livello normale di radioattività. Nell'aria, nell'acqua, nei vegetali, nel mare e nel suolo l'innalzamento dei livelli di radioattività continua a procurare allarme. E di oggi l'invito del governo anche ai residenti nella zona tra 20 e 30 km dalla centrale a lasciare volontariamente le loro case. La motivazione però non sarebbe legata alla sicurezza ma alla perdurante crisi degli approvvigionamenti. Intanto a Tokyo i bambini sotto un anno non devono più bere acqua del rubinetto e si è scatenata una corsa all'accaparramento di acqua minerale e da oggi anche delle sigarette. Il colosso del settore Japan Tobacco ha annunciato che per 12 giorni, a partire da mercoledì prossimo, interromperà le consegne ai punti vendita dopo la chiusura di due impianti nelle zone terremotate e la carenza nelle forniture di filtri. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. L'amministratore delegato di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, avrebbe intenzione di trasferire il quartier generale del gruppo negli Stati Uniti dopo la fusione tra Fiat e Chrysler, è quanto trapela da uno special report della Reuters sulla Fiat. Sempre secondo la Reuters, Marchionne starebbe pensando di quotare in borsa la Ferrari e valuta il marchio in circa 7 miliardi di dollari. La vicenda Parmalat, Intesa San Paolo spinge in favore di un progetto industriale per l'azienda di Collecchio, targato Ferrero, e dalla Francia la stampa punta sull'ipotesi invece di un'alleanza italo-francese con Lactalis, che potrebbe essere disponibile a creare una holding di controllo insieme alla famiglia di Alba. Ma con l'arrivo dei francesi corriamo il rischio di trovarci più latte stranieri nei frigoriferi? Valeria De Rosa lo ha chiesto a Roberto Burdese, presidente di Slow Food. La Parmalat nella sua storia non si è mai distinta per essere un'azienda che nel concreto portava la difesa del Made in Italy come suo principale valore. Nella gestione Tanzi fu una delle aziende italiane che più si internazionalizzò, più andò alla conquista di mercati stranieri, e già a quell'epoca il latte che arrivava sulle nostre tavole anche di italiani era, non saprei in che percentuali, ma sicuramente in buona misura di origine non conosciuta. Ancora oggi non mi pare che andando a comprare una confezione di latte Parmalat mi sia raccontato sulla confezione da dove viene questo latte, dove si trovano gli allevatori e via discorrendo. Quindi è un po' pretestuosa secondo me questa battaglia per difendere l'italianità di Parmalat, quando poi Parmalat in realtà nel concreto gli allevatori italiani non li ha mai difesi più di tanto. Le devo dire che per quanto riguarda i dati risulta che Parmalat paghi il latte agli allevatori italiani almeno tra il 15 e il 20% in più rispetto ai francesi, ad esempio. Difendere lo stile che Parmalat ha preso col commissario Bondi e difendere quindi il fatto che paga di più il latte in questo momento, allora questa è una buona motivazione per dire che noi non vogliamo il francese. Se lo paghiamo di più noi il latte di quello che lo pagano i francesi, allora questa è una buona motivazione, ma non perché sono francesi e non rimane la proprietà italiana, perché Tanzi era italiano, non è che se sono italiani è meglio per forza, ecco. Una curiosità, ora molti di voi magari ricorderanno l'orso Dino, diventato famoso perché è capace di arrivare in Italia dalla Slovenia percorrendo centinaia di chilometri in pochi giorni. Ebbene, l'orso Dino è morto in Slovenia il 15 marzo, era stato battezzato così in omaggio allo scrittore bellunese Dino Buzzati. La notizia si è saputa solo oggi, è stato abbattuto da un cacciatore sloveno. E allora parliamo di altre corse. 40 anni di corsa, la Stramilano, la popolare manifestazione podistica che si svolge a Milano, festeggerà domenica il 40esimo compleanno. La gara, aperta a tutti, l'anno scorso ha raccolto l'adesione di oltre 50.000 partecipanti. Nata dal gruppo alpinistico Fior di Roccia, la prima edizione partì di notte e organizzata con il passaparola da un gruppo di amici. Camillo Nesti, intervistato da Dario Ceccarelli, ci racconta allora com'è nata quella che fu una goliardata. Bravo, così. Lei deve sapere che nel 1971 noi, c'era un nostro socio, un certo Renato Cepparo, lui faceva tutti gli anni a giugno con la famiglia e degli amici, lui aveva una villa sopra Erba con un bel parco sopra Erba, e lui partiva da Milano di notte, faceva tutta la Valassina e alla mattina arrivavano tranquillamente camminando, ridendo, scherzando, arrivavano alla villa a piedi. Allora, così parlando nei societali, nel gruppo della Fior di Roccia, caspita, ma sarebbe bello, dai che quest'anno, dai, facciamo tutti assieme, venite tutti, senza fare nessuna comunicazione in giro, siamo partiti a mezzanotte di una giornata di giugno, una giornata nottata di giugno del 1971 in 997, e siamo arrivati là. E quando siamo arrivati, ci abbiamo messo ore ad arrivare tutti, perché eravamo divisi in vari gruppetti, chi correva, chi non correva, chi camminava, e sdraiati al sole sull'erbetta del prato, e lì ho avuto l'idea, dicevo, voi facciamone una a Milano, da lì è partita la cosa. Anche mi ricordo che lì è stato deciso il nome di Stramilano. E allora appuntamento domenica a Milano, noi invece ci fermiamo qui in regia Fabio Cantadori, prossimo GR24 come sempre alle 14, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.